Cialtroni nello spazio. La trasmissione, Marco. Il notiziario dedicato a quanto avviene nel mondo di internet, dell'informatica e delle nuove tecnologie. Un notiziario che oggi sarà più che altro di approfondimento. In studio Marco, Alessandro e Francesco. Un saluto ascoltatori e ascoltatrici. Andremo a parlare tra poco ancora di informatica e di libertà digitali. In particolare oggi parleremo di quello che sta accadendo in uno dei siti, probabilmente forse il sito più conosciuto al mondo di informazione antagonista libera e indipendente, ovvero Indymedia, che ha tenuto il suo decimo meeting per quanto riguarda la sezione, chiamiamola così, italiana a Torino nello scorso weekend. Questo sarà il primo degli argomenti che andremo ad affrontare. Poi cosa ci aspetta dopo? Beh, ci sono delle novità sulla questione Linux Novel e l'accordo appunto della Novel con la Microsoft, e dopodiché Alessandro, e poi parleremo di una novità per i lavoratori cognitivi, insomma che chi produce stando attaccato al computer, una simpaticissima tra virgolette novità proveniente dagli Stati Uniti. Cercando di metterci in contatto con Chaos dal collettivo Indymedia, appunto, per avere. Aspettate un attimo. Ci ha raggiunto in trasmissione anche uno degli attivisti della comunità di Indymedia, ovvero Chaos. Ciao Chaos, grazie di essere con noi innanzitutto. Ciao, grazie a voi. Ah, stavamo dicendo che questo weekend c'è stato il decimo Indie Meeting, ovvero l'incontro tra le varie soggettività e realtà che compongono e popolano il famoso sito di informazione indipendente Indymedia. Ci sono state delle proposte abbastanza significative nell'assemblea plenaria, le riassumo molto semplicemente, ovvero in questi giorni si sta discutendo di cambiamenti notevoli che potrebbero portare anche al congelamento di Indymedia e potrebbero portare all'apertura di un nuovo sito. Ci puoi un po' riassumere il dibattito che c'è stato in questi due giorni? Dunque, prima cosa mi permetto di correggerti sulla consecutio temporum, nel senso che non è propriamente corretto dire che ci saranno dei cambiamenti che porteranno eventualmente alla chiusura, ma è più corretto il contrario. La chiusura che porta eventualmente a tutti i cambiamenti che la nuova comunità che si vorrà riaccollare, la riapertura di Indymedia, si vorrà porre allo strumento, con tutti i condizionali del caso. Quindi questo lo stai dando un po' per già deciso, il fatto no, che... No, appunto, i condizionali sono appunto per questo. La Indymedia è una comunità che si dà una serie di regole, tra cui quella di accettare come organo decisionale all'interno di quello che fa, di quello che decide, di quello che è, eccetera, solamente la mailing list. Questo per permettere la partecipazione anche a quelli che non possono venire a Torino un fine settimana, ma che vogliono partecipare alla vita della comunità e a quello che è la produzione digitale piuttosto che quello che sia. Il che vuol dire che dall'assemblea è uscita una posizione abbastanza forte e molto consensuata dalle persone che erano lì presenti, che è quella di chiudere Indymedia così come la conosciamo, perché il congelamento del sito questo significa, perché è un'Indymedia nella quale non si può scrivere un articolo. in cui non si può commentare un articolo già presente, in cui le liste non producono e non modificano feature, è un'indie media morta, oltre che congelata. Questa qui è una proposta dei partecipanti, è una proposta che è stata formalizzata con un'email mandata a tutte le liste, perché comunque è una proposta importante, con un certo peso, sulla quale in questi giorni seguenti al meeting la lista discute, parla, si esprimerà e l'ultima parola sarà la sua. Non è stata presa nessuna decisione ancora. Ecco, quindi possiamo dire che cambiamenti potrebbero arrivare nel giro di qualche giorno, qualche settimana? Di solito le deadline dei processi decisionali che non riguardano la stesura delle feature sono intorno alla settimana, 10 giorni. Dopodiché, non, di nuovo, l'assemblea non è nessuno. Certo. Come dire, per dire alla lista decidete decidiamo in una settimana piuttosto che decidiamo in due. Quando e se la lista arriverà a una conclusione, quella che sia, si agirà di conseguenza eventualmente con il congelamento del sito e con la riapertura eventuale di nuovo appunto di una cosa che si chiama process presso le liste internazionali per farsi assegnare di nuovo il dominio italy.endimedia.org per eventualmente ricominciare con una nuova lista in partenza senza iscritti e un nuovo strumento. Certo. Senti, possiamo magari fare un po' il punto sulle motivazioni che hanno portato comunque a questa discussione? Quelle ormai dovrebbero un po' conoscersi. Queste sì, sono tutte... Noi abbiamo cercato di renderle le più facilmente fruibili per tutti possibile, in quanto sono in cima a Indie Media in questo momento, alla feature che è in cima sono linkate anche le mail che sono passate, e gli archivi della mailing list in cui si svolge questa discussione, ricordo a tutti quanti che sono pubblici, sono raggiungibili dal sito e quindi tutti possono vedere lo stato della discussione e iscrivendosi alla mailing list anche partecipare, perché il metodo partecipativo di Indie Media non cambia neanche in questo momento. I motivi che hanno portato i partecipanti al meeting ad arrivare a questa proposta sono tantissimi. Sono fondamentalmente la presa d'atto che lo strumento Indie Media da qualche anno a questa parte è fermo. Ha perso la verve di innovazione e di ricerca dello stare al passo con i tempi di quello che è il movimento attorno, in quanto si sta un secondo fossilizzando su una serie di posizioni che ha acquisito nel tempo e che molla, quella di essere la bacheca del movimento, quella di essere il posto dove la gente che passa sul newswire giustamente fa, prende e posta, ma non più dei contributi autonomi, personali, politici, di ragionamento, singolari o collettivi che siano, ma la stragrande maggioranza delle cose che vengono riportate su Indie Media sono la ripostazione di articoli di giornali mainstream. Quindi si tratta praticamente di una brutta rassegna stampa, piuttosto che deliri personali più o meno unici di tutti quanti. Ora, è chiaro che Indie Media è di chi la fa, è uno strumento in mano a una serie di a tutti, a porre il rischio insito per forza di diventare quello che tutti vogliono che diventi. Se vogliamo la ricchezza questa qua del sito di Indie Media, quella che ci ha sempre avuto e che l'ha sempre contraddistinta insieme all'apertura delle liste. Però a coloro ai quali si sono presi la responsabilità di gestirsi Indie Media anche un pochino più dall'interno negli ultimi anni, questa snaturazione di quello che era in principio non gli piace più. E quindi le persone che erano al meeting hanno deciso che fanno un passo indietro e quindi chiudono la loro partecipazione con quello che è diventato il sito di adesso. Nulla vieta alle persone che secondo i quali invece Indie Media va bene così e non ha bisogno di una fiabellata forte, di iscriversi alla lista e dire no, invece deve rimanere così, oppure i cambiamenti che servono in media va bene farli dall'interno senza passare per la chiusura, coloro i quali non saranno d'accordo si toglieranno di mezzo, per esempio io, e chi rimane dentro farà in media quello che vuole. Secondo noi la cosa che serve adesso è fare questo gesto, che sia anche, se vogliamo, profondamente e fortemente simbolico di rottura con, non con il passato, ma con il presente, con la fossilizzazione dello stato attuale. Noi adesso chiudiamo tutto quanto, riapriamo l'ambito di Indie Media come ambito di discussione di un progetto politico che adesso non c'è più, secondo noi, ma che magari potrebbe rinascere. Se qualcuno c'ha voglia, riaprirà in ambito internazionale il process per avere Indie Media, avremo una nuova mailing list alla quale tutti quelli interessati si iscriveranno, sarà nostra cura dare tutte le informazioni a questo riguardo sul sito, e da lì si ricomincia. Senti, io avevo ancora una domanda abbastanza a cui puoi rispondere probabilmente anche abbastanza velocemente, ovvero quanto ha influito la necessità di trovare delle nuove soluzioni tecniche dopo che c'è stata sostanzialmente la mancata disponibilità di chi offriva lo spazio gratuitamente, che in un certo senso forse ha accelerato questa discussione, o se invece l'ha determinata in maniera forte, per esempio. Non l'ha determinata, nel senso che il meeting di Torino era in agenda da mesi, in queste date e su questi temi, e quindi è successo dopo questo ritiro della disponibilità di chi forniva banda e server a titolo gratuito, è stato, se vogliamo, un'accelerazione di questo processo, nel senso che, visto che possiamo dire di avere un'urgenza, allora facciamo subito la discussione. Dopodiché non è assolutamente decisivo, nel senso che la banda necessaria per far funzionare Indie Media e i server necessari per farla funzionare si sarebbero comunque trovati. Cioè, non ne abbiamo, tra l'altro, già incassato varie disponibilità per averceli di nuovo a titolo gratuito, quindi non stiamo prendendo delle decisioni in questo modo, tanto avremmo chiuso lo stesso. La discussione era già in atto in questi termini, e il fatto di doverci spostare a dove siamo adesso in realtà non ci turba più di tanto. Ci dispiace, la stavamo bene, e ringraziamo chi ci ha dato la possibilità dal 2001 ad adesso di stare lì senza dover pensare tutte le realtà sociali che sfruttano Indie Media in modo massiccio con delle richieste di finanziamento. Nessuno ha mai alzato 2 lire per Indie Media, voglio ricordare al grande mondo del movimento, certo, Questi ultimi 6 anni. Adesso magari, se qualcuno ha voglia di ricominciare, cosa che per esempio noi quasi tutti abbiamo, bisognerà ripensarla anche questa cosa, perché non è una presa di, o quantomeno di coscienza e di responsabilità da parte di tutti, che la quale Indie Media sicuramente è nuovamente. Ti ringraziamo, insomma, per averci aiutato a fare un po' di chiarezza, e seguiremo. Spero comunque di essere stato chiaro. Io sì, abbastanza. È una questione che ci sta prendendo molto tutti quanti in modo molto totalizzante, quindi io, è possibile che abbia dato per scontato alcuni passaggi, spero di no. Comunque lo sforzo che sto facendo tutti quanti in questi giorni è di rendere disponibile sul sito tutto quello che succede e tutti i passaggi della discussione, quindi vi ricordo che in cima alla feature, in cima a Indie Media, ci sono i link agli archivi della mailing list in cui viene atto questa discussione, quindi se ci avete voglia leggetevi quelli, piuttosto che, se ci avete ancora più voglia di partecipare, iscrivetevi alla lista stessa. Perfetto, grazie, a presto, ciao. Grazie, Caos. A te, ciao. Ciao. Dopo questa intervista con uno degli attivisti di Indie Media, ricordiamo ancora www.indiemedia.it oppure italy.indiemedia.org per seguire la discussione, passiamo ad altri argomenti di scottante attualità. Marco. Beh, sono oramai 2 settimane che parliamo dell'accordo, del recente accordo tra Novel, che è tra l'altro la produttrice di Suse, si usa Linux e la Microsoft, e proprio di questi giorni è la novità di Steve Ballmer, che è il direttore generale della Microsoft, che ha ben pensato di chiarirci le idee su appunto le caratteristiche di questo accordo. E se qualcuno aveva qualche dubbio, le sue parole lasciano abbastanza poche ombre sul pensiero. Appunto, ad una conferenza, a una riunione di developer di SQL Server, no, mi è venuta la parola developer. Steve Ballmer è stato famoso un po' di anni fa perché si era messo a cantare una specie di canzone orrenda gridando developer, developer, sembrava un cocainomano impazzito. Una scena, cercatelo su internet, è veramente comico. Indipendentemente da questo, Steve Ballmer ha detto che le dichiarazioni sono state: allora, spendiamo 7 miliardi di dollari all'anno in ricerca e i nostri azionisti si aspettano la protezione di questi investimenti o almeno una presa di beneficio economico. Dobbiamo trovare il sistema che compensi le spese per i brevetti e favorisca l'interoperabilità. Questo significa fondamentalmente che la Microsoft ha speso un sacco di soldi in brevetti e quindi da questo suo accordo con la Novell spera di riottenere in qualche modo la possibilità di estendere appunto il controllo dei brevetti sul software anche in Europa. Dichiara poi inoltre Ballmer: avevamo un problema e abbiamo dovuto affrontarlo. La causa è la GPL e il fatto che Linux non sia prodotto da una società ma da una comunità. Questo in parole povere è tradotto, che cioè, si traduce nel fatto che appunto Linux, non essendo collegato direttamente a una società, non è stato possibile da parte della Microsoft di fare come ha fatto sempre nella storia precedente, ovvero sia quando si presentava un concorrente nel mercato del software, andava, lo comprava e, o lo distruggeva, o lo distruggeva in qualche modo trascinandolo in tribunale e quant'altro, mentre invece questa cosa, essendo Linux e la sua licenza GPL decisamente forte, la Microsoft non ha mai potuto prendere questo approccio con la Microsoft, con Linux appunto. E niente, poi vabbè, dichiara che questo accordo con la Novell lo potrà fare anche con le altre distribuzioni, sempre se le altre distribuzioni lo vorranno ovviamente, e che comunque le distribuzioni devono preoccuparsi perché adesso soltanto i clienti di SUSE Linux potranno, che secondo appunto Ballmer hanno pagato la proprietà intellettuale di Microsoft, potranno sentirsi sicuri. Insomma, alla fine sta minacciando di trascinare in tribunale le altre distribuzioni e dice fondamentalmente che Microsoft, che Linux è in debito con la Microsoft perché avrebbe violato i suoi diritti di proprietà intellettuale, e più o meno tutti in questo momento si stanno chiedendo ma dove vogliono arrivare, e in particolare quali sarebbero questi brevetti che sono stati appunto violati da Linux e che, di cui la Microsoft appunto ne dichiara la sua paternità, ne pretende la paternità. Non per niente la settimana scorsa avevamo segnalato una lettera aperta, una presa di posizione da parte del collettivo che sviluppa Samba, che è proprio un tool che permette l'interazione in rete tra macchine Linux e macchine Windows, e probabilmente si erano già sentiti il fiato sul collo l'IndySam, nel senso che questo è sicuramente uno dei pacchetti che più ha messo in crisi il binomio server workstation della Microsoft, quindi fornendo uno strumento che permettesse di far interagire i due sistemi. Chiaramente questo è lo strumento che potrebbe diventare cardine nella collaborazione tra SUSE e Microsoft, tra Novell e Microsoft. E questa è una cosa molto importante, perché sostanzialmente Novell, in un certo senso, facendo questo accordo, è come se dicesse sì, noi ci tuteliamo legalmente, però in realtà Linux non viola nessun brevetto di Microsoft, o almeno questo non è mai stato dimostrato da Microsoft in tribunale, né sarà così facile dimostrarlo, visto che non è così. E allora il fatto che Novell faccia un accordo con Microsoft su questo specifico punto è un po' un sintomo di debolezza, perché uno dei produttori principali, Novell, di Linux, che dice preferisco essere sicuro e non subire nessuna causa legale, toglie, diciamo così, almeno sotto il profilo morale, no? Sotto il profilo legale, un po' di forza a chi invece nega che Linux abbia mai violato un brevetto di Microsoft, come infatti è. Comunque una delle cose interessanti, ci sono vari avvocati che si sono occupati molto di questo argomento. Qua è citata in un'intervista di un... no, ce l'hai tu Marco, quell'intervista, l'avvocato di Sokglo, di quel sito che stavamo guardando prima. No, non è più stampata. Non lo so, non so di cosa stai parlando. Di Jones, che avevamo citato prima, gli appunti. Sì, questo articolo di cui stavo già parlando io, quella okay. La versione in inglese. Ah, ok. Allora, l'ultima. Vabbè, succede, dai, la trasmissione si chiama Cialtroni nello spazio un po'. Ed è proprio di ieri, invece, la lettera della Novell verso la comunità Linux, in cui invece va a ribaltare nuovamente la frittata, dicendo che Microsoft, nell'accordo tra Novell e Microsoft non c'era nulla di quello che ha dichiarato Steve Ballmer in questi giorni, e quindi tra virgolette sbugiarda quanto abbiamo detto nell'articolo precedente di Steve Ballmer. Dice che tra l'altro ricorda le sue posizioni contro l'approvazione dei brevetti software in Europa e negli anni precedenti, dichiara che l'accordo tra Novell e Microsoft era all'inizio soltanto sull'interoperabilità, e che la questione dei brevetti è stata voluta da quelli della Microsoft con chiaro intento di non trascinarsi in tribunale a vicenda per la violazione di brevetti, e quindi va a sbugiardare quanto detto da Steve Ballmer, e quindi va a rifarci ripiombare nel dubbio su cosa ci sia dietro veramente a questo accordo tra Novell e Microsoft. Io intanto ho trovato la citazione che stavo cercando. Pamela Jones, una delle editor di growclaw.net, che è un blog che segnala tutte le questioni legali che riguardano la comunità open source. La mia reazione è abbastanza incazzata. Quello che Ballmer ha detto è semplicemente paura, incertezza e dubbio, che è una delle tattiche che vengono portate avanti, e lei dice: lasciate che lui ci citi la comunità se pensa di avere un valido motivo, e vediamo che cosa succede. Quindi una reazione molto forte. Sentiamo uno stacco musicale prima di proseguire con gli argomenti. Andiamo a sentire Cuochi dall'album Skating, il loro sesto album, sempre dal sito yamendo.com, e questa è la canzone Electric, perché sono francesi. Continuiamo adesso con la trasmissione, andiamo a parlare di nuove schiavitù. Bene, sì. Esattamente, allora è comparso in questi giorni, anzi l'altro ieri per la precisione, un articolo sul nuovo sito dei Chainworkers, la terza versione. Il sito è www.chainworkers.org, che è la traduzione della presentazione di una nuova azienda. In realtà è un po' che c'è. Leggiamo un pezzettino di incipit, giusto per far capire. Qualche mese fa ha inaugurato un nuovo supermercato online della forza lavoro cognitaria globale e noi siamo andati a indagare un po' sulle novità che ha da proporci. Non è il primo sito che apre con l'obiettivo di mettere in collegamento domanda e offerta, ma è il primo che ha recentemente incassato 8 milioni di dollari da Benchmark Capital, che è una società finanziaria che finanzia progetti spesso e volentieri di high tech. E evidentemente perché lo considera un buon investimento. Si chiama Odesk ed offre il talento di programmatori, sistemisti, grafici, designer con qualcosa in più rispetto alle altre aziende che si propongono come gestori di outsourcing: il controllo. Allora, questa simpatica azienda che trovate al sito www.odesk.com in pratica fornisce, vabbè, un servizio di avanzato, super avanzato di job on call. In sostanza ci sono le aziende che cercano, che comprano lavoro, come è scritto, the buyers, si iscrivono a questo servizio, chiaramente pagano l'intermediario, e a questo servizio si iscrivono anche gratuitamente gli offerenti lavoro, i lavoratori in sostanza. Il sito si propone quindi di incrociare domanda offerta. Fin qui niente di nuovo, niente di speciale, di particolare. È abbastanza diffuso anche ovunque, insomma. Sì, diciamo che va bene, negli Stati Uniti è molto più utilizzato, qua da noi un po' meno, ma comunque nell'ambito high tech parecchio. La cosa interessante è che il lavoro svolto da chi offre lavoro avviene attraverso un'interfaccia studiata da questi di OpenDesk, quindi un desktop virtuale in sostanza, quindi il programmatore o ma chiunque faccia un lavoro che ha il computer, potrebbe essere anche un dattilografo o qualsiasi cosa, deve fare le sue operazioni all'interno di questo desktop virtuale, che fa le seguenti cose: sei volte ogni ora, in una sequenza casuale, manda una fotografia della schermata del desktop al datore di lavoro, in maniera tale che possa controllare quello che viene fatto. Inoltre, perché questo sarebbe effettivamente un po' blando, quindi vi conviene non andare in bagno mentre c'è questa questo è il desktop, nel senso che manda quello che stai facendo. Invece è prevista anche la presenza di una telecamera davanti al computer che dimostri che effettivamente l'operatore è lì davanti al computer e sta scrivendo. In più, tutti i tasti premuti durante la sessione di lavoro vengono registrati e possono essere rivisti dal datore di lavoro in qualsiasi momento. Quindi le sessioni sono tutte registrate, si viene pagati esclusivamente a ore o credo addirittura a tempi codice inferiori, anche credo che siano anche a mezz'ora. Comunque si viene pagati per il tempo in cui si sta connessi con questa interfaccia, quindi non un secondo di più, e offre tutta una serie di simpatiche funzionalità statistiche per monitorare la velocità di scrittura, i metodi lavorativi, insomma le applicazioni aperte, le sequenze, eccetera eccetera. È un fantastico strumento per il controllo del lavoro globale, che opera in 50 paesi al mondo, offre degli stipendi discreti, nel senso che ad esempio sul sito sono riportati alcuni esempi per sviluppatori principalmente, quindi cose che riguardano la programmazione, che vanno da una media di $15 a un massimo di 65 all'incirca, che non è poco, però sicuramente soprattutto nei paesi più sviluppati sono cifre che già circolano attualmente, quindi diciamo che nei paesi in cui queste forme di lavoro sono già avanzate fa concorrenza all'offerta di lavoro tradizionale, insomma, della mano d'opera a basso costo, mentre nei paesi si propone principalmente chiaramente di raccogliere la forza lavoro in paesi in via di sviluppo, o comunque in cui queste forme di lavoro sono meno sviluppate, in particolare in Russia, nell'Europa dell'Est, in Asia e in India. Ce n'è sempre una nuova da questo punto di vista. Cioè, io è che se ne sentiva veramente la mancanza di uno strumento di controllo del genere, perché è un po' un modo per ricreare la catena di montaggio del nuovo millennio, insomma, delle nuove forme di lavoro post-fordiste, però su scala globale. Certo. E con questo fantastico strumento noi vi salutiamo. Cialtroni nello spazio torna mercoledì prossimo attorno alle 12.40. Sito, email spazioradio.circolab.net oppure spazio.circolab.net oppure spazio@circolab.net per scriverci. No, radio@circolab.net. Insomma, fate una combinazione delle seguenti cose. Vabbè, il sito verrà sarà aggiornato. Per quello che non ci scrive mai nessuno. Vabbè, dai, questa puntata la rifacciamo, dai. radio@circolab.net per scriverci, radio.circolab.net per leggere le puntate dell'anno scorso, perché il sito non è ancora stato aggiornato.